Non so mai che cosa dire a chi chiede mie nuove, a chi chiede de nuove, a chi chiede le prove di ciò che penso in un universo, tutto quel che mi muove. Nel silenzio che assorba compongo come Beethoven, ed ogni nota che arriva quando rimpiangi le prime, perché non temi mai l'inizio ma la fine. Così legata agli altri per dire che questa vita è nostra, mentiamo pure a noi stessi a metterla in mostra. Se è tutta un'illusione che un giorno tocchi a te, un'altra via di fuga, vuoi la verità nuda. Non che me ne sbatto un cazzo fra te, sono i giochi degli 80, accendo la TV, c'è il gioca Joe. Avvolto la curiosità degli spazi profondi, se dentro il mio corpo possono esserci altri mondi. Altre volte ho pensieri più normali, tipo amo gli animali se gli esseri umani non sono tali. Ho paura del domani, penso al futuro anche se non rientra nei miei piani. Ogni progetto sta in teoria, scrivo la mia digetto, le parole che non voglio le rigetto, sembro dislessia. Aspetto a tempo ma il tempo non passa, per la partenza in un'altra galassia, alla ricerca delle origini, nuovo sangue dentro i miei ventricoli, il cielo infinito, zeta reticoli. E ancora cerco il mio spazio, non mi basta più. E ancora voglio il mio tempo, non mi passa più. E ancora cerco il mio spazio, non mi basta più. E ancora voglio il mio tempo, non mi passa più. E ancora cerco il mio spazio, non mi passa più. E ancora voglio il mio tempo, non mi passa più. Non mi basta, non passa più. Il cielo infinito, zeta reticoli. These stars are located in the constellation of Reticulum, which can only be seen from the southern hemisphere. Zeta Reticuli is a binary star system, which means it is two stars, and is located approximately 30 light years from Earth. These beings are from Reticulum 4, which is the fourth planet out from Zeta Reticuli 2. Sai, ci sono momenti in cui non posso fare a meno di pensare perché sono vivo e che ci faccio qui. Almeno chi ci ha tentato sa quant'è che costa morire e rinascere dopo avere una risposta. Cos'è che mi fa andare avanti mentre il mondo è un assassino? Luci vicino splendono più dei diamanti, nascondono tempi morti, gli istanti brutti, le pieghe che prendi quando a volte pensi che sia tutto inutile. No, ma immaginato che la notte avesse quel colore, mai dato per scontato che fosse solo dolore. Bloccato falti e bassi dentro un ascensore, Io non ho mai sognato di essere un uomo migliore. Ora sono in balia di una voce, ululo, seguo la scia. Profumi il fango, i miei sensi sento sulle braccia. Vagio lunare ovunque vada, mi rintraccia. Non frago dolce in questo mare molto più di quel che pensi. Ed avevo cura di lei, questa galassia è nostra. Senza paura svelerò la sua faccia nascosta. Più dell'astro polare la sua luce conduce altrove. Respiro dell'universo, tutte le stelle muove. Perso in un singolo raggio che la mia pelle invade. Scendo, stringo l'ostaggio, poi fuga via dall'Ade. In ogni lacrima c'è questa luna. Tieni la mia anima, sei tu ad avermene ridata una. Il mondo non sa quel che so, non ha quel che ho. Ed oltre l'universo io ci sono e ci sarò. Farò dei minuti, giorni, dei giorni, anni, finché sarai tu a salvarmi. Il mondo non sa quel che so, non ha quel che ho. Ed oltre l'universo io ci sono e ci sarò. Farò dei minuti, giorni, dei giorni, anni, perché sarai tu a salvarmi. La media avvolge i miei sguardi verso comete. Sono l'ultima davvero, aspetterò che ricompaia. Non sarà mai abbastanza tardi, il vento ha già fermato le lancette. Sul suo viso come sabbia, gente snera da migliaia. Io cercherò di mantenere eterna questa sera. Castelli in aria già più in là dell'atmosfera. Albedo della Siberia colma il peso delle distanze. Da pace senza speranze. Non un satellite, il pianeta attorno al quale ruoto. La mia rivoluzione, il paradiso che ho raggiunto a nuoto. Portami via da questa terra distratta. Dentro di noi la morte e la via lattea. E se ogni giorno arriva per buttarmi, lasciarmi cadere giù, io non voglio svegliarmi. Frammenti del mio sogno nella colta. E stanotte so che non sarà per sempre, perché sarà oltre. Il mondo non sa quel che so, non ha quel che ho. Ed oltre l'universo io ci sono e ci sarò. Farò dei minuti, giorni, dei giorni, anni, finché sarai tu a salvarmi. Il mondo non sa quel che so, non ha quel che ho. Ed oltre l'universo io ci sono e ci sarò. Farò dei minuti, giorni, dei giorni, anni, perché sarai tu a salvarmi. Perché sarai tu a salvarmi. Perché sarai tu a salvarmi. Fa andare con la musica oltre l'infinito.